Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico finanziaria. La borsa, dopo la vicenda Telecom che ha tenuto banco ieri, oggi si sgonfia, anche se a questi movimenti la borsa ci è abituato, nel senso che il titolo torna praticamente sui livelli precedenti alla corsa di ieri, sull'ipotesi di un'offerta pubblica di scambio da parte di Telefonica, l'azionista di maggioranza relativa in Telecom Italia, meno 3,3% a 1,1 euro per azione. In pregilo meno 3,1, Mediobanca meno 2,5, Banco Popolare meno 2,2, Atlantia meno 2,1. Complessivamente l'indice è negativo di quasi un punto percentuale, e così come ieri Milano era la migliore, oggi è tra le peggiori o la peggiore. Nulla di preoccupante, meno 0,8%. Parigi meno 0,3, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Londra meno 0,6, non poteva essere altrimenti visto che anche l'America perde uno 0,3% sul Dow Jones e lo 0,2% sul Nasdaq. L'euro è fermo a quota 1,39 sul dollaro. Di cosa parleremo oggi? Cosa ci riserva la cronaca e l'attualità dell'economia e della finanza? Tratteremo l'occupazione per un insieme di notizie che riguardano purtroppo situazioni di licenziamenti, cassa integrazione e anche proteste, ma anche perché oggi tra l'altro c'è stato l'intervento anche del ministro Scajola sulla vicenda Alcoa, vicenda che stiamo seguendo fin dall'inizio, gli operai di Porto Vesme e anche di Fusina Venezia. Stiamo parlando di 600 operai a Porto Vesme e circa 200 a Venezia, e soprattutto del fatto che la multinazionale americana voglia aspettare la decisione europea nonostante l'offerta del governo italiano di ridurre drasticamente, portarli quasi a un terzo, i costi dell'elettricità in Sardegna e in Sicilia per permettere alla Coa Sarda di essere più competitiva. Parleremo però di occupazione anche perché Scajola è intervenuto anche su Termini Imerese, ma soprattutto ci sono altri elementi, e cioè l'INPS è uscita con un rapporto sull'andamento della cassa integrazione che, devo dire, è buono. Cioè, è chiaro, siamo al 186% in più rispetto all'anno scorso, a gennaio, però siamo al meno 17% come domande di cassa integrazione rispetto a dicembre. Scende soprattutto la cassa integrazione ordinaria, mentre quella del 20%, ma scende anche quella straordinaria del 15%, e diminuisce anche la cassa in deroga, per cui ne parleremo con il presidente dell'INPS. Ancora tratteremo poi temi che riguardano l'economia internazionale, perché oggi c'è stato un forum molto interessante con uno dei massimi economisti presenti in questo momento, Moses Naim, e si è parlato anche della parte che riguarda Grecia, e anche su questo abbiamo degli aggiornamenti e possibilità di uscita da questa crisi. Parleremo anche di economia reale, come si chiama in gergo, non ci piace molto questa espressione. Oggi infatti hanno aperto i battenti a Medexpo tutti i vari espositori di questa fiera importantissima nel settore costruzioni, un settore che vale 154 miliardi di euro in Italia, e a Medexpo ci sono 1700 aziende, di cui 250 estere. Sono attesi circa 200.000 visitatori. Domani sarà la volta invece della Fiera dell'Agricoltura a Verona, e anche di quello parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. Infine, nella seconda ora del programma, cercheremo di capire questo dato leggermente positivo, anche se si viene da una serie di dati pesanti. La Confcommercio ha rilevato una leggera crescita nei consumi, più 1% nel mese di gennaio. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Al di là dei temi che ho già annunciato, oggi segnaliamo il petrolio in calo, ma in calo da livelli alti, $76.8 al barile, e poi la vicenda Toyota, che sta diventando un vero e proprio calvario per la casa automobilistica giapponese. Dopo aver richiamato 2.300.000 auto negli Stati Uniti, il problema dell'acceleratore che non risaliva correttamente, e 1.800.000 vetture in Europa, poi ne ha ritirate altre 100.000 circa in Africa e Sud America. Adesso ci sono altre grane, perché ci sono più di 100 segnalazioni relative ai problemi ai freni della nuova Prius, che è stata presentata lo scorso giugno. E ancora, i casi sono almeno 102 negli Stati Uniti e 14 in Giappone. Dopo i problemi ai freni della Prius, a questo punto la borsa sta bastonando, e ha bastonato questa mattina Toyota alla borsa di Tokyo, meno quasi il 6%, meno 5,7%. Chiaro che pesano anche le vendite a gennaio negli Stati Uniti, meno 15%, meno 16%, dopo il richiamo di tutte queste auto, era immaginabile. E anche l'ipotesi, oltre che a questi nuovi problemi alla Prius, l'ipotesi che l'amministrazione federale americana, che è competente sulla sicurezza stradale, possa imporre delle sanzioni alla Toyota, perché il gruppo avrebbe agito in ritardo e quindi potrebbe essere citato per danni. E adesso una vicenda che stiamo seguendo da mesi, ma senza grandi risultati, e mi riferisco alle banche d'affari americane, che, come hanno recuperato e sono tornate a fare utili, si sono messe subito a distribuire bonus, mega bonus ai loro manager. Il caso che ha fatto scoppiare tutto è stato quello di Goldman Sachs, $16 miliardi già accantonati per bonus ai vari manager, come se non ci fosse mai stata una crisi nel 2008, come se la stessa Goldman Sachs non avesse ricevuto decine di miliardi dall'amministrazione americana per essere salvata. Adesso è la volta di Bank of America. Bank of America è un'altra di quelle banche che ha ricevuto un ammontare enorme, $45 miliardi, che ha già restituito a fine dicembre, però li aveva ricevuti. Ebbene, oggi, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, che cita una fonte interna alla banca, Bank of America ha destinato $4.5 miliardi per bonus ai dipendenti, pensate un po', dell'investment banking, e quindi si tratta circa di $400.000 a dipendente. E poi ci si chiede perché Barack Obama abbia cavalcato questa, diciamo, moto popolare contro le banche too big to fail, troppo grandi per essere fatte fallire, che già hanno ripreso a fare gli affari loro. La Grecia, ripeto, ne parleremo anche alle 18.05. Comunque, Atene resta sotto sorveglianza nonostante la Commissione Europea abbia dato via libera al piano anticrisi messo a punto dalla Grecia. Nelle raccomandazioni approvate oggi dall'esecutivo europeo si sottolinea come ci siano dei rischi sulla strada del risanamento, e comunque l'obiettivo del 2012 va raggiunto a tutti i costi, senza ritardi. E poi Bruxelles invita la Grecia a essere pronta a nuove misure se dovesse servire, quindi se il piano non dovesse essere sufficiente. Non c'è solo la Grecia, però. Il commissario europeo agli affari economico e monetari, Joaquín Almunia, ha detto: ogni paese ha una situazione diversa, però ci sono altri problemi con altri stati membri, pur ammettendo che non sono paragonabili a quelli che ha vissuto la Grecia. Ancora, secondo il premio Nobel all'economia Krugman, oggi poi Krugman ha detto: attenzione, il vero problema dopo la Grecia, anzi ha detto una cosa un po' diversa, scusate, il principale problema per la zona euro non è la Grecia ma è la Spagna. La Spagna fino a qualche anno fa aveva grossi avanzi di bilancio, oggi ha pesanti deficit a causa del collasso della sua economia. È chiaro che se la Grecia vale come la Lombardia, la Spagna ha un peso leggermente superiore, e quindi lì si puntano i riflettori. L'Irlanda in questo momento, l'altro paese di cui molto si parlava, sembra essere meno a rischio, però insomma, stiamo a vedere. La Spagna ha un peso fondamentale ed ecco perché si va a guardare attentamente quello che sta succedendo. Della Confcommercio abbiamo detto: più 1% i consumi delle famiglie nel mese di dicembre rispetto al dicembre del 2008, non sta comunque, dice Confcommercio, il nostro paese non sta uscendo dalla recessione con un particolare slancio, vi sta uscendo in maniera molto molto lenta, graduale e senza un particolare slancio. Bene invece il settore assicurativo in Italia, la raccolta nel 2009 è salita del 20%, è volato il ramo vita più 20% e tra l'altro il ramo danni ha avuto un leggero incremento, meno 2,2%, le ombre sono soprattutto appunto sulla RC Auto e sul ramo danni. E adesso parliamo di giovani, o meglio di studenti da un lato e di bamboccioni dall'altro. Perché? Beh, un po' ve l'hanno accennato già i nostri GR sulle dichiarazioni rese dal ministro Brunetta a Porta a Porta. Però che cosa è successo? Ci ha lasciato molto sorpresi questa notizia, per cui ai professori di un istituto tecnico genovese, nel caso specifico l'Attilio Odero di Sestri Ponente, quartiere industriale di Genova, avevano provocatoriamente annunciato l'intenzione di affidarsi a Gratta e Vinci per rimpinguare le casse della scuola. Hanno fatto una colletta tassandosi di un euro a testa e hanno comprato i Gratta e Vinci. Purtroppo, quindi piove sul bagnato, hanno vinto solo 17 euro subito reinvestiti. E poi hanno fatto anche un documento di protesta contro i tagli dei finanziamenti ministeriali. Allora, i tagli, anche qui avevo promesso un aggiornamento, ve lo diamo, perché uno poi può dire quello che vuole, ci sono esigenze di bilancio, ma insomma con la finanziaria approvata ci sono tagli per 7 miliardi e 300 milioni di euro alla scuola. Questi sono i risparmi che il Ministero dell'Istruzione dovrà centrare per i prossimi 3 anni e nel caso specifico 1 miliardo e 600 mila euro in meno nel 2010, quest'anno 2 miliardi e mezzo in meno nel 2011 e 3 miliardi e 2 nel 2012. E con parte dei proventi dello scudo fiscale qualcosa si è riuscito a limare, cioè sono stati ridimensionati alcuni tagli, l'università da 750 milioni a 350, 103 milioni di euro sono stati stanziati per i libri di testo gratuiti e 130 milioni di euro sono stati dati alle scuole private, ma resta l'ammontare complessivo e comunque tagli che molti definiscono pesanti proprio alla scuola. Vedo alcuni ascoltatori che hanno la Prius, dicono va benissimo, ma non abbiamo mai detto il contrario. Si è creato un caso di segnalazione negli Stati Uniti e in Giappone, per cui su questo la borsa ha punito Toyota, non certo su nostre indiscrezioni. Comunque, sempre in tema di scuola, anzi di giovani, scusatemi, oggi il ministro Brunetta, nella registrazione della trasmissione Porta a Porta, che verrà trasmessa in serata, è tornato su un tema che già aveva affrontato la settimana scorsa il nostro ospite, e cioè che questo sistema è un sistema ipergarantista con i padri protetti dall'articolo 18 e iperflessibile con i giovani. Dicevo un concetto che aveva espresso la settimana scorsa, ascoltiamo questo passaggio. Il problema è l'egoismo dei padri. L'egoismo dei padri che si manifesta in tanti modi, egoismo, vedi l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'egoismo dei padri che vuol dire pensioni finte di invalidità, vuol dire finte o vere pensioni di anzianità, vuol dire pensioni d'oro, cioè vuol dire quello che ci imputa l'Europa, che spendiamo troppo per le pensioni, ma non le pensioni per le vecchiette o i vecchini, quelli che se la sono guadagnata, ma per chi la pensione la considera un optional in più. E spendendo troppo per pensioni, questo ho detto per cattive pensioni, non ci restano più i soldi per spendere per i nostri giovani. Difatti siamo il paese in Europa che spende di meno per aiutare i giovani o a trovare un lavoro o a trovare una casa o a formarsi al meglio, quindi borse di studio, prestiti d'onore. E io ho detto fuor di ipocrisia. Siccome si parla da tempo di patto intergenerazionale, eccetera, eccetera, cosa vuol dire fare un patto intergenerazionale? Vuol dire spendere di meno per il cattivo welfare dei padri e spendere di più per interventi buoni per i figli. Questo questo il pensiero, appunto già ribadito la scorsa settimana ai nostri microfoni dal ministro Brunetta. Noi restiamo in tema questa volta di padri ma anche di figli, ossia il tema è l'occupazione. Arriveremo anche alla buona notizia, perlomeno da un punto di vista statistico, sulla cassa integrazione che è diminuita a gennaio rispetto a dicembre, invece ancora molto alta rispetto al gennaio del 2009. Però vorrei dare un aggiornamento su notizie che toccano da vicino molti lavoratori. Il caso Alcoa è il primo che trattiamo. Tutto rinviato al prossimo 8 febbraio, il vertice di ieri sera tra governo e rappresentanti dell'Alcoa, che ripeto è una multinazionale americana dell'alluminio, ha dipendenti nel 2005 in Italia, però insomma i principali a rischio sono Porto Vesme in Sardegna e Fusina a Venezia. La società chiede una garanzia ancora più puntuale e date più certe rispetto al 22 marzo, quando il decreto che riduce, che porta quasi un terzo i costi energetici per Sicilia e Sardegna, e quindi dovrebbe avvantaggiare anche Alcoa, chi fa alluminio consuma moltissima energia, il decreto, dicevo, dovrebbe essere convertito in legge il 22 marzo. E poi volevano rassicurazioni anche dall'Europa. Nel frattempo è volato a Pittsburgh, quartiere generale di Alcoa, il numero uno della divisione italiana, Giuseppe Toia. E l'unica concessione che ha ottenuto però è stata quella di avere un nuovo tavolo, un nuovo incontro il prossimo 8 febbraio. E però Palazzo Chigi, in un comunicato, invita Alcoa a non compiere azioni unilaterali, a mantenere un atteggiamento responsabile. Dal fronte europeo Barroso dice che risponderanno all'Italia. In sostanza Alcoa vuole essere sicura che questo vantaggio nell'elettricità non venga poi punito, bloccato da Bruxelles come aiuto di Stato. In realtà non dovrebbe essere così, perché in questo caso le aziende accettano anche di aver interrotto l'elettricità qualora si raggiungessero dei picchi, quindi non c'è solo un vantaggio. La rapidità della decisione, però, spiegano da Bruxelles i servizi antitrust dell'Unione Europea, dipende anche da quanto collaboreranno le autorità italiane, che finora, dice Bruxelles, hanno solo inviato una copia del decreto e non una notifica vera e propria. Però insomma, molto ostentorio, il ministro dello sviluppo Claudio Scajola ha detto una cosa deve essere chiara: il governo non permetterà una decisione unilaterale. Abbiamo agito anche con un decreto legge per dare delle agevolazioni che ponesse il costo dell'energia elettrica per questo tipo di imprese al pari degli altri paesi europei. Ci attendevamo una risposta positiva di Alcoa immediata, così non è stato. Nella tesa riunione di ieri sera, che è l'ennesima riunione e incontro che noi facciamo con i dirigenti di Alcoa, in contatto continuo con gli Stati Uniti d'America dove c'è la proprietà, si è deciso un ulteriore approfondimento che faranno i dirigenti negli Stati Uniti. Settimana prossima avremo la risposta di Alcoa, ma una cosa deve essere chiara, che poiché il governo ha messo nelle condizioni di avere lo stesso costo di energia ad Alcoa qui in Italia come ha negli altri paesi europei dove ha impianti, il governo non permetterà una decisione unilaterale, perché farà ogni azione perché vengano rispettati gli impegni da parte di Alcoa, e diversamente Alcoa subirà tutte le conseguenze di una scelta improvvida. Così per quello che riguarda la vicenda Alcoa. Anche il segretario generale della CGIL Epifani ha detto: vediamo cosa deciderà la multinazionale, però il governo deve usare eventualmente anche misure straordinarie. Arriveremo anche alla Fiat, vicenda raffineria. Ieri abbiamo avuto ospite, come di voi lo ricorderanno, il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana. Ieri, nel presentare il bilancio energetico dell'anno, De Vita ha anche detto: attenzione, ci sono 7.500 posti a rischio perché 4-5 raffinerie potrebbero chiudere. Beh, su questo poi devo dire che De Vita ha precisato ieri in diretta che è un'ipotesi, non ci sono dei tagli già previsti, però che si potrebbe arrivare a quella situazione. Anche su questo è intervenuto il ministro Scajola. Il governo è convinto che sia un fatto assolutamente congiunturale, che si debba ben distinguere dai fatti strutturali, e che la ripresa che si è già annunciata nei mercati tradizionali di export dei prodotti raffinati italiani porterà a breve ad una situazione di stabilità. Al Ministero abbiamo attivato ormai da tempo un tavolo sul petrolio che si riferisce anche alla parte dello stacco fra il costo medio della benzina e del gasolio in Europa e in Italia. Stiamo lavorando e credo che entro la fine di questo mese potremmo arrivare già a una prima intesa per meglio mettere nelle condizioni i consumatori e quindi per rendere più responsabile la scelta e quindi il mercato renderlo effettivamente più libero. E adesso la vicenda Fiat, quella più delicata per dimensioni, per il numero di cassi integrati, per la vicenda di Termini Imerese. Allora, ha detto il ministro Scajola, secondo il governo c'è ancora spazio, riferendosi a Termini Imerese, nella riorganizzazione della Fiat che deve produrre in Italia, c'è ancora spazio per Termini Imerese. E poi però ci sono arrivate anche novità sulle altre offerte. Sentiamo Scajola su Termini Imerese. Oggi la Fiat immatricola in Italia più auto di quelle che produce in Italia. Su questo problema siamo intervenuti con lunghi confronti con la Fiat nei mesi scorsi. Ci pare di essere arrivati ad un accordo positivo, perché la Fiat crescerà entro il 2012 del 50% la sua produzione di auto in Italia. È evidente che la Fiat ha bisogno di riorganizzare la propria produzione nei diversi stabilimenti. A parere del governo c'è spazio anche per Termini Imerese. Se la Fiat invece insisterà nella decisione della chiusura di Termini Imerese, noi abbiamo concordato nell'ultimo tavolo che insieme alla Fiat e con il suo contributo positivo dovremo individuare un diverso sviluppo industriale per Termini Imerese, ma non la chiusura di questo polo industriale importante per la Sicilia e per l'Italia. E qui torniamo su una, ormai, su un tema su cui ci sono due punti di vista completamente diversi: Fiat da una parte, nel governo Regione Sicilia dall'altra. Abbiamo detto, creando anche un po' di malumore negli ascoltatori, al 349-238-6666, che un gruppo come Fiat ha tutto il diritto di chiudere uno stabilimento che ritiene improduttivo per i costi che ha, per l'indotto e quant'altro, e che però si possono cercare anche soluzioni alternative. Una delle soluzioni alternative che sono arrivate, ci sono varie ipotesi, abbiamo letto, però sono sempre di così, voci di un interessamento di fondi sovrani cinesi o comunque di gruppi cinesi per mettere la testa di ponte in Italia per produrre auto, addirittura auto che verrebbero assemblate lì e poi rimandate in Cina, per cui utilizzando anche lo stabilimento di Termini Imerese, facendo arrivare dalla Cina la scocca e poi riportando l'auto finita in Cina. E poi c'è un progetto che seguiamo con interesse, ma lo dico senza nessun tipo di così di giudizio di valore, perché significa produrre auto elettriche e auto a energia solare. E mi riferisco al progetto che sta studiando e ha messo a punto il fondo CAPE di Simone Cimino, assieme, da quello che abbiamo capito, all'indiana REVA, che già vuole produrre questa auto elettrica che dovrebbe poi essere alimentata, cioè quando uno va a rifornirsi, con pannelli solari. E se ho ben capito, siamo arrivati a dei dettagli anche sulla parte occupazionale. Allora ringrazio per averci di nuovo raggiunto in collegamento Simone Cimino, appunto. Buonasera. Che è fondatore e proprietario del fondo CAPE. Buonasera Cimino. Buonasera a voi. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti dovevate ancora avere l'incontro col governo, sì. Non c'era ancora tutta la vicenda del braccio di ferro sulla sede, né l'annuncio della Fiat che metterà in cassa integrazione per 2 settimane i dipendenti di vari stabilimenti tra fine febbraio e inizio marzo. Quanti posti di lavoro? Ci racconti qualcosa in più, perché abbiamo letto che voi stimate di poter avere 3.500 posti di lavoro, sì. Siccome al Termini Imerese sono 1.300, sarebbe veramente no, allora, Natale. Spieghiamo, ci sono 3 progetti. Il primo è il progetto di produzione auto a Termini Imerese, dentro o fuori i muri di Fiat, a seconda di cosa Fiat deciderà di fare di quei muri, se fa un supermercato piuttosto che degli studios. ma comunque un modo a 30.000 metri quadrati rispetto ai 150.000 metri quadrati che oggi coperti usa Fiat, con due fasi, una fase a 400 occupati per 30.000 auto e un'altra fase di altri 400 occupati per arrivare a 60.000 auto. Qui veniamo a produzione secca di auto elettriche, con tecnologia Reva che è il nostro partner. Ecco, è vero, mi scusi, sulla Reva, abbiamo detto, ma Reva ha negato o le trattative vanno avanti? Cioè, perché no, che hai negato? Io anche oggi ho avuto tutta la giornata di dettagli sui nostri accordi. Reva è una società che ha dentro degli investitori californiani che non appena hanno letto come in Italia questa cosa è assurda, così argomento di interesse nazionale, stanno discutendo più nei dettagli la cosa, perché improvvisamente la società di venture capital indiana, un capitale californiano fino ad oggi privato in centro di ricerca, è stata catapultata in un progetto così ampio, così ambizioso. Primo. Secondo, quindi io aspetto al massimo un 48 ore di avere l'MU firmato con loro, andare avanti con il nostro lavoro. Quindi un memorandum of understanding, un accordo Prego. Abbiamo già un accordo firmato un mese fa, ma era generico, adesso è un po' più dettagliato perché il progetto ha preso corpo in termini di numeri di massima. Seconda società è quella dei sistemi solari di alimentazione, quindi le centraline, il software di controllo, la finanza per comprare il consumo energetico rispetto a comprarsi la batteria, quindi lei non comprerà l'auto con batteria, ma potrà alternativamente comprare soltanto l'auto e la batteria, di fatto finanziarsela con i consumi quotidiani della sua vettura, in modo da abbattere una barriera psicologica che oggi allontana il consumatore dall'acquistatore elettrico, che ha nella batteria un costo quasi pari al 50% dell'auto stessa. Terza società sarà invece quella che avrà la proprietà e la gestione dell'infrastruttura di ricarica, che saranno circa 2.000 stazioni in 9 province. Oggi abbiamo in Sicilia 1.850 stazioni di carburante, quindi più o meno simili, e quindi i 2.000 occupati saranno nelle 2.000 stazioni, 500 occupati si stimano in due fasi nella parte ingegnerizzazione, sviluppo e produzione dei sistemi di ricarica e i 1.000 nelle due fasi circa per la parte delle auto, per cui il termine merese i 1.000 più 500 consentirebbero di far fronte a un numero di occupati simile a quello di Fiat diretti oggi, ovviamente in parte vanno educati a questo tipo di mestiere per la parte di sistemi, o vanno riconvertiti, nei 2.000 invece nelle nuove province. Allora, ecco perché si arriva a 3.500. Siccome su temi che riguardano l'occupazione e gente che perderà, se le cose vanno avanti così, il posto di lavoro dopo il 2011, io chiedo a tutti, chiaramente anche lei, massima serietà. No, ci mancherebbe. Dopo le informazioni meteo e la pubblicità, vorrei capire esattamente, questa è l'idea del progetto, però la fattibilità, nel caso specifico, di quanti soldi avrete bisogno come finanziamenti, che arrivano anche da Bruxelles, per carità, però come finanziamenti, quanti soldi metterete voi? E poi ho capito che sono, diciamo, 1.000 dovreste riassorbire da termine, gli altri 2.000 sono quelli legati alle stazioni di ricarica. Però se avete fatto anche una valutazione del mercato possibile, perché non vorremmo che poi si creasse una struttura e dopo 3-4 anni ci si rende conto che non c'è mercato per l'auto elettrica e a quel punto si ritorna a capo 12. Quindi quanti soldi e la fattibilità del progetto anche in termini di mercato di sbocco? minuti. Allora, prima di arrivare alla borsa, anzi all'INPS, cassa integrazione alla borsa, continuiamo questa pagina. Dico a chi scrive al 349-238-6666, attenzione, l'avevamo detto più volte nei mesi passati, il 2010 è un anno in cui i temi dell'occupazione saranno delicatissimi, più ancora dei fatturati che già sono stati pesanti nel 2009, ma si stanno riprendendo, e quindi avremo ampie pagine su questo, purtroppo. Mi auguro di no, mi auguro di parlare di altro, ma temo che sarà così. Allora, Simone Cimino, prego. Vogliono sapere gli ascoltatori, queste auto, ci chiarisca il concetto, si alimenteranno a energia elettrica prodotta non da combustibile ma da pannelli, ho capito bene? Cioè, secondo... Sì, esatto, le stazioni di ricarica saranno alimentate a pannelli solari. La Sicilia ha la più alta quantità di ore in un anno di installazione, che consente appunto un ottimo sistema di captazione dell'energia, poi può essere accumulata o inserita nel grid di Enel, quindi nella rete, quando le auto non sono lì ad essere alimentate, e quindi è una stazione che ha una fonte naturale, una fonte rinnovabile di energia e quindi anche una sua economicità, perché al di là di vendere energia a chi si andrà a ricaricare la batteria dell'auto, avrà la fonte della stessa che sarà una fonte naturale, a parte l'investimento nei pannelli che peraltro è finanziato dal conto energia, quindi i 400 milioni di euro del progetto delle 2000 stazioni si può realizzare senza contributi a fondo perduto europei e italiani, perché si finanzia con conto energia, come chiunque faccia oggi in Italia un parco fotovoltaico. Questo per quello che riguarda i 400 milioni del esatto. parco. Mi dica di quanti 530 milioni invece per sistemi e per auto prevedono un rapporto tra capitale e contributi per ricerca, innovazione e infrastrutture di circa 25-75, come ogni progetto in zona obiettivo 2. Quindi soldi europei? Sono europei e poi sono via via calati a livello nazionale, ma prevalentemente europei e nazionali. E voi quanto mettereste alla fine però? Il totale capitale è circa 170 milioni di euro. Cioè voi mettereste 170? Su 930. Su 930 divisi di tra 400 milioni finanza. Per lo stabilimento, ho capito benissimo, per lo stabilimento di produzione di energia tramite solare che verrebbe pagato il conto energia, e 530 milioni che verrebbero pagati per i due terzi dall'area dei fondi per le aree depresse. Che prospettive di mercato avete? Alcuni ascoltatori scrivono che Reva fino adesso ha venduto pochissimo in tutto il mondo, ma allora, soprattutto io vorrei capire, unisco le due domande, ci chiedono, ma lei conosce la Sicilia? Sì, da quello che so io lei è siciliano di origine, per cui la conosce. Ma la domanda immagino che nasconda anche una regione in cui insomma dovete avere un bel accordo con Lombardo, cioè il presidente della regione, bene accolti, perché è una regione difficile da molti punti di vista. Rispondo alle due domande. Ieri sul Riformista c'era un bellissimo articolo che citava la quotazione in borsa dopo 54 anni, almeno il filing, di un'azienda californiana di auto, Tesla. Dopo 54 anni in America torna in borsa un'azienda di auto. La Tesla, che ha prodotto in 6 anni di vita 937 auto, ha perso fino ad oggi 250 milioni di dollari ed è una società che ha ricevuto finanziamento a conto perduto da Obama per realizzare una Spider da 50.000 dollari elettrica. Questo vuol dire dove siamo oggi tra investimenti e innovazione in campo dell'auto elettrica. Reva, che è la prima azienda al mondo per numero di auto elettriche in circolazione, ne ha fatti fino ad oggi 3.000. Quindi sembrano un niente 3.000, ma confrontate con la più grande e più americana nell'auto che sta avvenendo elettrica, è 3 volte tanto. Per quanto riguarda la Sicilia è un territorio difficile, come è difficile qualunque territorio oggi di un'Europa in difficoltà. La Sicilia ha avuto e forse insomma, ancora adesso la mafia, fatto, la mafia d'accordissimo, parliamo di mafia, parliamo di tangenti, parliamo di difficoltà operative. Secondo lei tangenti e mafia non sono a Londra, a New York, a Milano, in tante attività economiche o di costruzione o di altro, sono ovunque. Io le posso dire che Invest Sicilia dal 2007 come fondo e se un'azienda siciliana ha sopravvissuta a difficoltà operative e concorrenziali in un contesto come quello, vuol dire che è migliore di altre. Okay. Questa è la mia lettura. Vabbè, quindi insomma lei ha già dei buoni rapporti con... Io porterò soltanto ragazzi siciliani a gestire questo progetto, questo che vivono bellissima... come me a Milano, a New York, altrove, perché soltanto loro possono capire la realtà del territorio. Ma noi, io confido nel fatto che ormai negli ultimi 20 anni, dopo i fatti del 92, la Sicilia ha invocato una strada diversa, e se non ci crediamo noi che siamo nati lì ma cresciuti altrove, educati altrove, chi ci deve credere? Scusi. Allora, no, ma guardi, io su questo sono d'accordo, così come abbiamo fatto molte puntate raccontando anche gli investimenti dell'Andrangheta, la Camorra in Lombardia, ci mancherebbe. Mi sembra di capire che lei comunque ha già dei buoni rapporti con la Regione Sicilia e questo è sicuramente utile. E io sono recenti, non li ho avuti in passato, ma quando mi sono candidato a questa cosa sono improvvisamente diventati più attivi. Io ho fatto il mio fondo, che si precisi, il mio fondo nasce sotto un'amministrazione del presidente di allora che si chiamava Cuffaro, quindi non ero legato a Lombardo, non c'è nessun rapporto con Lombardo, neanche con Cuffaro, fu un bando pubblico con cui nacque il fondo. Oggi c'è un'altra amministrazione, questo progetto durerà tanti di quegli anni che non so neanche chi ci sarà fra 2 o 3 anni. No, va bene, guardi, io le auguro in bocca al lupo, perché se passasse questo progetto serve in cui assumete 2000 persone per le stazioni di servizio, riassorbite tutti praticamente gli esuberi di Termini Imerese, producete auto elettriche, ma insomma cosa vuoi di più? Basta, contentissimi. È chiaro che alcuni fanno la domanda perché la Fiat non lo fa, la Fiat questo progetto, evidentemente la Fiat ha altre scale, altri obiettivi, adesso non possiamo fare tutto il programma su questo. In bocca al lupo anche a Simone Cimino, speriamo appunto che questo progetto venga preso in considerazione, se la Fiat dovesse confermare che lascerà Termini Imerese. Noi ci risentiremo comunque quando avremo nuovi sviluppi, grazie ancora. Buonasera, grazie a voi. Allora, adesso arriviamo ai mercati. Oggi la puntata è bella densa. Poco fa il ministro Scajola, sempre sulla vicenda Alcoa: se Alcoa, avendo ottenuto quello che voleva, andasse via, non andrà via gratuitamente. Questo lo dico a chi dice che Scajola è stato troppo perentorio con gli americani. Due notizie ancora. Il Cresme, proprio durante il settore edilizia e costruzioni, si prepara un 2010 difficile. Stiamo sempre parlando di occupazione, possibile chiusura del 10-15% delle imprese nel settore, e a rischio 150.000 posti di lavoro dopo i 100.000 persi nel settore costruzioni e edilizia nel 2009. E poi dall'Osservatorio sull'occupazione di Confindustria, servizi innovativi e tecnologici, in crisi 90.000 posti di lavoro, anzi già persi, scusatemi, dal secondo trimestre 2008 fino al terzo trimestre. Il settore, quindi informatica, telecomunicazioni, radiofonia, televisione e quant'altro, ha perso complessivamente 90.000 posti di lavoro. E poi una vicenda che ricorda più Kafka che questo programma. Perché? Perché insomma c'è una società, Minerali Investimenti a Roma, che ha inviato una lettera di biasimo a otto dipendenti, agli otto dipendenti che sono rimasti e al direttore delle fonti di acqua Santa Rita di Né, perché ha detto: siete scarsamente produttivi. Beh, e ci credo, è 10 mesi che non ricevono lo stipendio e praticamente non vengono più pagati e hanno acque minerali di buona qualità, raccolte a livelli ottimi, una potenzialità di 20 milioni di pezzi, vi si producono solo 4-5 milioni di bottiglie, ma è 10 mesi che non vengono pagati. Allora, complimenti alla società che li ha anche accusati di essere non produttivi. Delle volte, vabbè. Allora, Antonio Mastropasqua, presidente dell'INPS, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Presidente, grazie per la disponibilità. Con lei una buona notizia: la cassa integrazione è migliorata a gennaio su dicembre, certo meno 17% il ricorso della cassa integrazione, resta molto alta anno su anno, cioè gennaio su gennaio, più 186%. Allora, adesso arriviamo anche alla borsa. Ogni tanto ci sono temi più importanti, non lo ripetiamo ogni volta. La borsa oggi ha fatto meno 1% in una giornata senza grandissimi spunti, molti realizzi su Telecom. Adesso vi arriviamo. Mi sembra che il tema dell'occupazione, senza nessuna offesa per chi investe in borsa, sia oggi e in questo periodo più di attualità. Presidente dell'INPS Mastropasqua, allora, voi avete registrato domande di cassa integrazione in calo del 17% a gennaio rispetto a un anno prima. Rispetto al dicembre, scusatemi, e invece in aumento sempre del 186%. Ci interessa la tendenza, che cosa notate negli ultimi, diciamo, 3 mesi come, diciamo, velocità del ricorso alla cassa integrazione? Ma vede, innanzitutto bisogna dire che il paragone con l'anno precedente è qualcosa che non è fattibile, in quanto innanzitutto, per esempio, nell'anno precedente non esisteva ancora la cassa integrazione in deroga, quindi mancava un elemento. Secondo, è una crisi che si sta evolvendo mese per mese, quindi è significativo vedere quello che succede rispetto al mese precedente. Noi abbiamo gennaio su dicembre con un calo del 17%, con una cassa integrazione ordinaria del meno 20%, straordinaria meno 14% e deroga meno 11%. Quindi significa che questo è di fatto il terzo mese consecutivo nel quale l'ordinaria cala in modo vistoso, e è il primo mese nel quale comincia a calare anche la straordinaria e comincia a calare anche la deroga. Noi registriamo rispetto ai mesi precedenti quindi un rallentamento, noi l'abbiamo chiamato una grande frenata della richiesta di cassa integrazione. Significa che le aziende cominciano a riprodurre, ovviamente, perché la cassa integrazione è proprio il campanello che fa vedere quando si comincia a riprodurre e quando invece le macchine sono ferme. Allora, fermo restando che questo, come è dato, una buona notizia, che poi le ore effettivamente utilizzate sono più basse delle ore richieste, le giro una domanda che arriva dai nostri ascoltatori particolarmente maliziosi e dicono: può essere che ci sia un minor ricorso alla cassa integrazione rispetto a un mese fa, e comunque una tendenza, come lei segnalava, degli ultimi 3 mesi, dovuta sia ad alcune imprese che sono tornate a produrre, la crescita dell'Asia e qualche segnale, in Europa ancora si vede molto molto poco, ma insomma, ma anche al fatto che dalla cassa integrazione si sia passati ai licenziamenti? Beh, questo a noi non risulta perché, sempre i dati che abbiamo fornito oggi, la disoccupazione ha un calo addirittura anche rispetto a dicembre 2009, sono 94.000 domande contro i 99.000 del dicembre 2008 e addirittura la mobilità passa da 7.000 domande a 5.000, quindi un meno 27%. A noi sembra, ecco, guardi, poi l'INPS è un'istituzione, noi sentiamo tantissimi centri studi che interpretano e danno qualsiasi tipo di lettura. L'unico dato reale poi alla fine è quello dell'INPS, perché certo, è la verità, non si fanno sondaggi, si registra quello che realmente avviene. Mm-hmm. Noi vediamo come c'è un rallentamento dell'autorizzato, in più abbiamo fatto un'esercitazione per la prima volta, che però è significativa, ovvero il tiraggio analitico. Il tiraggio analitico? Quindi lascia aperta un'ipotesi, prego. Lascia aperta un'ipotesi, ovvero mentre prima non si faceva mai rispetto a quanto si chiedeva, quanto era il vero utilizzo, in questi mesi ne abbiamo fornito una percentuale che era però non data dal singolo decreto ma dato dall'insieme delle autorizzazioni e poi dell'utilizzazione. Sull'anno 2009 ho voluto far fare proprio decreto per decreto la competenza dell'anno e l'utilizzo dell'anno, è venuto fuori questo utilizzo del 56%, quindi a fronte delle richieste che sono tante c'è un utilizzo di quasi la metà. Questo che significa? La lettura che noi diamo da un'interpretazione proprio dei dati, che essendo una crisi di non ben delineati confini e contorni, le aziende hanno chiesto molta cassa integrazione. Cioè avevano molta paura. Avevano molta paura perché non si capisce, quando uno dice che la crisi dipende dai subprime in America, se uno fa le lavatrici in Italia dice ma io che c'entro? No, ma è l'horror vacui, la paura del vuoto, e quindi uno intanto si premonisce di svariati paracadute. Esatto, quindi uno ha chiesto tanta cassa, per esempio sulla cassa integrazione in deroga noi abbiamo avuto all'inizio tutte le aziende che hanno chiesto per tutti i dipendenti 0 ore per un anno. Poi si è visto che sulla cassa integrazione in deroga tantissimi non hanno neanche più mandato gli elenchi dei dipendenti. E dato che è meglio così, non è credibile che un dipendente non riceva lo stipendio e non abbia sollecitato l'azienda, questo significa che poi invece realmente l'azienda ha continuato a operare. Continuato a produrre, e questo è un dato positivo. Beh, non significa che la crisi è finita, perché è chiaro che quando io paragono gennaio 2009 con gennaio 2010 c'è un incremento, come ha detto, e come noi abbiamo comunicato oggi, del 186. Però l'importante è vedere il trend mese per mese. No, siamo d'accordo su questo. Un'ultima battuta, per quello che riguarda invece, fuori da questo ragionamento, i conti dell'INPS, lei ci conferma l'attivo? Ma noi abbiamo chiuso il 2008 con 13 miliardi e mezzo di avanzo finanziario, chiuderemo il 2009 credo tra i 7 e gli 8 miliardi, quindi nell'anno nero della crisi, il cosiddetto, l'INPS e i conti dell'INPS sono in ottima salute, e questo è importante perché dai conti nostri dipende tutto quanto. Sì, dipende da tutto quanto. Dipende tutto il sistema welfare, ovviamente. Tutto il sistema del welfare e la tenuta appunto del sistema previdenziale. Grazie al presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Grazie a tutti quanti. Arrivederci. Allora, adesso arriviamo alla borsa, come molti di voi ci chiedono, però insomma anche questi dati sono importanti, attenzione, abbiamo chiesto se per caso il dato fosse diminuito per via dei licenziamenti, ma non è stato così, non risulta così all'INPS, ed è vero che l'INPS poi ha il dato finale, è vero che molti imprenditori per precauzione hanno chiesto più ore di cassa integrazione di quelle che hanno dovuto utilizzare, questa è una buona notizia, poi l'INPS lo vede sulla base di quello che deve dare poi alle imprese, no? Deve pagare. La borsa la facciamo a cavallo oggi tra le 17 e le 18, dopo il GR, poi i dati sul commercio, il Salone Madexpo. Allora, meno 1% oggi Milano, mezzo punto percentuale di calo Parigi, lo 0,6 il calo di Francoforte, l'America sta perdendo mezzo punto, Londra anch'essa ha perso mezzo punto, molto bene questa mattina l'Asia. Soprattutto Hong Kong più 2,2, l'euro è vicinissimo a quota 1,38, 1,3907. Partiamo adesso da Telecom, il caso di ieri, devo dire il caso di oggi, anche se oggi si sono visti molti realizzi, meno 3,8% a 1,1 euro. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera a tutti. Sì, mi sembra che sia tornata sui livelli pre ipotesi telefonica. leggermente superiori, ipotesi telefonica si attestava intorno a un euro, poco più di un euro, adesso si attesta a 1,10 euro. Verranno rilevati tuttavia i volumi ancora consistenti, sono state trattate 220 milioni di azioni, meno di quanto trattato ieri, ma si tratta ugualmente dell'1,6% del capitale ordinario. Ricordiamo che di media nell'ultimo mese, a parte la seduta di ieri, venivano trattati solamente poco più di 90 milioni di pezzi, quindi l'attenzione rimane sicuramente alta. Sono scattate le prese di beneficio perché l'unica cosa che pare vero è che l'operazione non è imminente, ma potrebbe slittare magari entro l'estate, ma comunque dopo le elezioni. Dopo le elezioni, anche perché la variabile politica è importantissima. Questo per quello che riguarda Telecom Italia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa. Chiaramente l'intervista in diretta con il presidente dell'INPS Mastro Pasqua l'abbiamo appena fatta, c'è un leggero refuso nei GR e ci ha confermato appunto che c'è un andamento buono nonostante l'estrema difficoltà della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga negli ultimi tre mesi, e che le ore utilizzate sono state molto di gran lunga inferiori alle ore richieste. Continuiamo sulla borsa invece, dopo aver chiarito il caso Telecom Italia. La borsa si raffredda anche perché capisce che i tempi saranno lunghi, diceva giustamente l'onorevole Micheli, le ipotesi sono che la vicenda venga in qualche modo sciolta, risolta dopo le elezioni regionali. Il governo non ha fatto mistero che la rete infrastrutturale di Telecom Italia deve restare italiana. Ansaldo STS miglior titolo, più di 90, Eleonora. Ansaldo è stata premiata dopo la notizia che la società ha vinto una commessa da 180 milioni di euro. La notizia è stata data ieri, d'altra parte anche oggi appunto le azioni hanno continuato a salire, hanno tra l'altro ricevuto anche diversi giudizi positivi da parte degli analisti che hanno apprezzato questa commessa per l'esercizio e la manutenzione della metro di Copenaghen. Ancora, sì, devo dire che è un po' strana sta borsa, forse ieri era molto distratta da Mediobanca e Telecom Italia, perché la notizia della rete, della vittoria di Ansaldo STS appunto a Copenaghen è di ieri. Complessivamente tu ricordavi la cifra, poi ci sono 300 milioni in ballo ieri per l'intero gruppo Finmeccanica. Prysmian più 1,41%, Exor più 1,20%, Fondiaria più 1, Mediolanum più 1 e Parmalat più 0,80 e Steam Microelectronics più 0,40, A2A più 0,2, poco mossa Fiat, sempre ferma a 9 euro per azione, più 0,1%. Chi ha perso? I Telecom, l'abbiamo detto, Impregino meno 3,4, Mediobanca meno 2,80, anche il Banco Popolare perde il 2,4%, Atlantia meno 2, Intesa meno 1,6 come la Popolare di Milano, e Ubibanca che perde l'1,4 come Unicredito. Monte dei Paschi meno 1,2, Mediaset meno 1,3%. Chiudiamo con Luxottica, Autogrill e Mondadori che perdono tutte e tre l'1% fisso. Allora, Impregilo, se ci sono novità, perché il titolo ci ha abituato a movimenti un po' ballerini, e Mediobanca e Banco Popolare, perché Mediobanca ieri era di nuovo, ha guadagnato quasi il 5% sull'ipotesi appunto di fusione con le generali. Esatto, in Pregilo sì, c'è una novità, ovvero è stato reso noto che il Tribunale del Riesame di Napoli ha ridotto a 266 da 750 milioni il sequestro preventivo legato all'inceneritore di Acerra. Il mercato però si attendeva un azzeramento completo della cifra e quindi appunto c'è stata questa reazione negativa. Per quanto riguarda Mediobanca, anche in questo caso è la speculazione. Ieri si era ipotizzato il matrimonio tra Mediobanca e Generali, come aveva rilanciato l'ipotesi il quotidiano La Repubblica, ipotesi peraltro rilanciata perché era già circolata nei giorni precedenti. Oggi anche in questo caso si crede alla smentita che è stata comunicata ieri nel tardo pomeriggio dalla stessa Mediobanca, quindi i titoli hanno perso parte dei guadagni della vigilia. Il Banco Popolare in verità si è più volte cambiato direzione. Segno, sì, sì. Nel corso della seduta infatti era anche arrivato a mettersi in evidenza con il suo rialzo e distinguendosi rispetto agli altri titoli bancari. Poi nel finale è andato giù, sono anche in questo caso scattate le prese di beneficio dopo la corsa delle ultime sedute, che era stata innescata dalle parole del consigliere delegato rilasciate in assemblea sabato scorso, con le quali appunto Saviotti ha annunciato che il Banco Popolare tornerà a distribuire la cedola. Allora, migliori e peggiori in assoluto: Neurosoft -7,5, Indesit -4,5, -5. C'è qualche novità su Indesit? Sì, c'è una novità, cioè Electrolux, il colosso appunto degli elettrodomestici, ha indicato prospettive poco brillanti per l'esercizio in corso. Ha detto che non ci sono segnali di una forte ripresa nei principali mercati, e proprio per questo prevede solo un modesto miglioramento della domanda, che comunque rimane debole. Quindi questo ha pesato un po' su tutto il comparto degli elettrodomestici, ovviamente anche sulle Indesi. Pramac +17,6, e poi Elica +7,80, Cetropetics +6,3, Olidata +5,50. Questi migliori titoli. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore. Torniamo sulla Grecia, sui rischi, diciamo sui debiti dei vari paesi, il rischio effetto domino, e poi parleremo del commercio degli italiani. 349-238-6666 per i vostri sms. Avevamo annunciato anche l'approfondimento sul salone del arredo per la casa, non solo, ma anche per le costruzioni. Mad Expo lo faremo domani assieme alla Fiera Agricola. Oggi veramente le notizie erano troppe. Allora, avete letto in questi giorni effetto domino dalla Grecia, il rischio che va dalla Spagna ai paesi baltici. In realtà, se si vanno a vedere le differenze tra quanto rende, quindi quanto deve essere pagato un investitore per comprare debito greco o debito tedesco, che è sempre quello considerato in Europa più affidabile, vediamo che la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca a 10 anni, il Bund, e una obbligazione greca era schizzata a 390, 3,9%, siamo a 3,7 adesso. L'Irlanda è all'1,6, più alto è questo rendimento più a rischio è il paese, e il Portogallo è a 119 punti, quindi 1,2, la Spagna è 95, l'Italia 92, Norvegia e Regno Unito a 70. Per cui insomma il paese più vicino alla Grecia quanto a costo del suo debito per essere finanziato in Irlanda, la Spagna è molto vicina all'Italia. Però oggi sulla Spagna si è abbattuto il giudizio del premio Nobel dell'economia Paul Krugman, che ha detto il vero problema per l'Europa, per la tenuta dei conti pubblici europei, per l'euro, è il problema della Spagna, non è il problema della Grecia. Ancora su questo è intervenuto oggi il commissario degli affari economico monetari dell'Europa Almunia, che ha toccato di nuovo il punto della Grecia. La Grecia ha presentato un piano di austerità che prevede, pensate, il congelamento di tutti i salari dei dipendenti pubblici per il 2010, anche quelli sotto i 2.000 euro. Qualcuno ha fatto notare che però l'anno scorso si erano permessi di aumentare dell'8% questi salari. Blocco di tutte le assunzioni pubbliche nel 2010, riduzione del 10% delle spese di tutti i ministeri, aumento dell'età pensionabile, nuove tasse sui carburanti e tasse sui dividendi azionari. Il deficit sta al 13%, mentre il governo, e questa è la cosa che ha pagato molto, a inizio 2009 aveva detto siamo al 3,7%. Il debito pubblico ha superato quello italiano, è il 125%. E appunto nei prossimi giorni dovrebbe esserci un'emissione di obbligazioni greche intorno ai 3-5 miliardi. Sentiamo Almunia proprio sulle nuove misure aggiuntive anti-deficit. Oggi stiamo fornendo una valutazione al programma greco. Stiamo anche dando alla Grecia alcune raccomandazioni per la correzione del deficit eccessivo, visto che a dicembre l'Ecofin ha evidenziato come non siano state adottate azioni concrete dopo una prima raccomandazione inviata a metà 2009. Si tratta di raccomandazioni che puntano a correggere le decisioni di politica economica di uno Stato membro quando queste politiche non siano in linea con i parametri generali e creino quindi problemi al corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria. For the smooth functioning of the economic and monetary union to the Greek authorities. We share. Alle autorità greche voglio dire che condividiamo gli obiettivi da loro stabiliti per correggere gli squilibri sia dell'economia che dei conti pubblici. Condividiamo l'ambizione del programma. È un piano molto ambizioso e crediamo che gli obiettivi siano raggiungibili. Sosteniamo e diamo fiducia alle autorità greche, ma se vediamo che gli obiettivi non vengono raggiunti e il cammino delle misure supplementari non viene seguito, chiederemo alle autorità greche di adottare il prima possibile ulteriori misure. Quindi l'Europa chiede alla Grecia misure aggiuntive e il Premio Nobel dell'Economia dice: attenzione, il vero problema per la zona euro non è la Grecia ma la Spagna. Di questo ha parlato oggi, ospite del Sole 24 Ore, un incontro organizzato appunto del Sole 24 Ore, coordinato dal direttore del quotidiano Gianni Riotta, Moses Naim, che è direttore dell'importantissimo, prestigiosissimo Foreign Policy. Gli è stato chiesto dalla nostra Anna Marino qual è la situazione greca e se, diciamo, teme un effetto domino a livello anche europeo, che la vera domanda, la Grecia per fortuna pesa poco, pesa agli abitanti della regione Lombardia ma non ha il PIL della regione Lombardia, per fortuna. Allora, si diceva della lunga tavola rotonda del forum organizzato oggi da Sole 24 Ore con il numero uno della rivista, il direttore di Foreign Policy, Moses Naim. Ascoltiamo questo passaggio al microfono della nostra Anna Marino proprio sul rischio Grecia e rischio effetto domino. I problemi che possano essere attaccati efficacemente da un governo da solo stanno diminuendo. È molto difficile trovare un problema che un governo dica: questo è mio e questo lo posso trattare senza l'intervento, la collaborazione, l'aiuto di altri governi. Allora, mentre si espande questa necessità di azione collettiva, mentre la domanda cresce fortemente, l'offerta di azione collettiva diminuisce o rimane come minimo allo stesso livello. Non sto pensando solamente alle Nazioni Unite, anche se là c'è evidentemente l'epicentro di quello che sto dicendo, così che questo tema del deficit tra una domanda globale che si espande di attuazione collettiva e un bloccaggio di questa capacità è evidentemente molto importante. E questo lo vedremo anche, lo stiamo vedendo, nel sistema finanziario, che è un'altra area dove è impossibile che nessun paese possa attuare da solo efficacemente. Il fatto che la Grecia potrebbe andare a default ha spaventato molti, e molti invece hanno capito immediatamente che comprare dei buoni, dei debiti di Grecia era un'opportunità meravigliosa e l'hanno usata moltiplicandola con le nuove tecnologie di prodotti derivati. Quello di nuovo è un esempio di deficit, le necessità di attuazione collettiva efficace. Così appunto Moses Naim. Trovate tra l'altro tutto il suo intervento sul sito del Sole 24 Ore, a cui si può accedere anche da quello di Radio 24, nuovo, vi consiglio la visita. E adesso ultima notizia. Allora, non è che vogliamo chiudere sempre in bellezza, però insomma, in una giornata come questa in cui abbiamo parlato delle vicende Alcoa intricatissime, ancora tutto bloccato, di altri casi di lavoratori a rischio nel settore costruzioni, nel settore telecomunicazioni, dati anche confindustriali, e abbiamo dovuto prendere atto anche di quello che sta capitando a Termini Imerese, che quindi la situazione non si sta, diciamo, sbloccando. A mio avviso oggi le buone notizie sono due. E una ve l'abbiamo data, quella dell'INPS, che insomma è calata a livello congiunturale la cassa integrazione ordinaria e straordinaria in deroga, e l'altra è anche qui da prendere con le pinze, perché c'è bisogno un po' grattare per trovare buone notizie in questo periodo, e riguarda il commercio, o meglio i consumi degli italiani. Dice la Confcommercio: la crisi si attenua, a dicembre più 1% i consumi delle famiglie italiane rispetto al dicembre del 2008. Però poi aggiunge: mettere mani avanti. Allora, vediamo di capire qual è la qualità di questa piccola ripresa, dove va a collocarsi con il responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. Sono oltre 770.000 imprese associate. Dottor Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Allora, la stiamo usando un po' come un monitor in questi mesi. Più 1%, mi dica subito, al netto o al lordo dell'inflazione? Al netto dell'inflazione. Ah, quindi reale. Parliamo di spesa reale. Effettiva, quindi è un miglioramento vero che segue due mesi comunque di miglioramento. Allora, qui non si tratta di essere ottimisti o pessimisti, però facendo queste elaborazioni molto semplici, poi facilmente controllabili su dati ufficiali, emerge che congiunturalmente siamo abbastanza fuori da una fase recessiva, anzi una piccola ripresa c'è, questo non vedo perché non si debba dire. Siamo qua a dirlo. No, ma rispetto a un anno fa invece, per capire anche da dove veniamo e quanto ci mettiamo a tornare lì? Rispetto a un anno fa siamo leggermente sopra appunto dell'1%, ma soltanto in questa ultima parte. Rispetto al picco pre-recessione, quindi rispetto diciamo al novembre del 2007, siamo ancora molto lontani, diciamo meno 2% in termini reali. Purtroppo, se dobbiamo chiudere questo cerchio del confronto con il passato, dobbiamo dire che in termini di PIL pro capite, di consumi pro capite, secondo l'Istat, dico in termini pro capite, quindi a testa, siamo ai livelli dell'inizio degli anni 2000. Quindi la ripresa per tornare diciamo a godere di certi livelli di benessere nella misura in cui sono possibili che sono correlati ai consumi, ecco, sarà lenta, e per questo ci vuole cautela. Però ecco, anche il dato cui faceva riferimento lei sulla riduzione della cassa integrazione è comunque un segnale che secondo me non va assolutamente trascurato. No, poi speriamo che come inizia nel 2000 poi non si creino quei problemucci nel passaggio lira-euro. Bella, ma insomma quello era un mio riferimento come memoria storica, perché i consumi si muovono anche sui prezzi, non solo sulle attese. Detto ciò, dov'è che si concentrano i segnali più interessanti? Perché è chiaro che la media spesso è quella di Trilus, per cui più 1% dice poco. Dov'è che voi vedete una ripresa di attività abbastanza interessante? Perché noi abbiamo visto quanto ha fatturati soffrire nell'ultimo, vado a memoria, negli ultimi dati, anche la grande distribuzione. Però vorrei capire dov'è che si sta muovendo qualcosa in maniera un po' più consistente, strutturata. Ecco, il fatturato è anche un altro discorso, non c'è certo, un problema certo. Di contenimento dei margini, quindi di riduzione dei prezzi. E dunque, al di là delle immatricolazioni di autovetture a persone fisiche, sono andate molto bene a dicembre, più 31%, e chiudono l'anno con più 12,5%, quindi l'effetto incentivi c'è stato, possiamo segnalare l'area dei giochi, lotterie, concorsi e quant'altro, che fa più 19% a dicembre, e quindi questo è comunque un fatto che va considerato. I trasporti aerei sono migliorati sempre in termini di spesa al netto dell'inflazione, poi da tre mesi migliora anche l'area dell'informatica. Certo, qui c'è anche l'effetto diciamo di questi piccoli portatili, cosiddetti netbook, che stanno andando molto bene. Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto anche un incremento di domanda su decoder per il digitale terrestre, i TV di nuova generazione, quindi anche questo effetto si vede abbastanza bene, con tassi di variazione del 6-7% dopo nove mesi piuttosto difficili, e addirittura un po' meglio, lo avevamo anticipato qualche tempo fa, un po' meglio anche l'area dell'alimentare e addirittura l'abbigliamento e le calzature, che sono in una crisi di lungo periodo della quale, insomma, con la quale non annoiamo più gli ascoltatori. Ecco, anche abbigliamento e calzature praticamente hanno fermato la discesa. Ci sembra che il quadro complessivo non sia troppo negativo. Questo secondo lei è dovuto anche, in una battuta, perché siamo in chiusura, anche a un effettivo calo dei prezzi, che poi molte volte va sotto la forma di promozioni, sconti, saldi prolungati? Guardi, l'inflazione sui beni di fonte Istat è a zero, è passata dal più 4,1% della metà del 2008 a zero. La chiusura dell'anno complessivamente è di 0,8, se ci mettiamo anche le promozioni di chiusura che l'Istat non prende in considerazione, che ricalcola l'IPCA in sede Eurostat, certamente un effetto positivo del contenimento. E quindi dell'inflazione c'è. Chi ha la busta paga e chi ce l'ha ancora, e chi non ha problemi di busta paga, un po' di potere d'acquisto lo sta recuperando, l'abbiamo detto più volte. Direi di sì. suscitando anche un po' di... Sì, siamo d'accordo che forse non si recupererà, anzi sicuramente non si recupererà tutto quello perso con l'introduzione della lira all'euro, e vedo che anche lei mi dà ragione. Grazie. Non abbiamo più tempo, ormai ha detto, ormai ha ammesso anche lei come commerciante che c'è stato un problema. 9 anni fa. Grazie a Mariano Bella, responsabile ufficio studio di Confcommercio, in collegamento con noi. Ed è veramente tutto, però c'è ancora una notizia che riguarda la Toyota e l'incubo in cui è entrata la prima casa, quella che era la prima casa di produzione di auto al mondo. Poco fa il ministro dei trasporti americano ha detto: smettete di guidarle. Non guidatele, portatele da un concessionario Toyota e vedete che ve le rimpareranno. E il titolo oggi, questa mattina in Giappone, ha perso il 6% perché si sono segnalati anche i problemi sulla Prius. È chiaro che poi c'è un po' di nazionalismo, General Motors, Chrysler e Ford tengono famiglia pure loro. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.